Il punto di Stefano Folli. Ha fatto bene il premier Renzi a esprimere solidarietà alla mamma del ragazzo morto a Ferrara nel 2005. Gli applausi degli agenti di polizia riuniti a congresso ai loro colleghi che hanno provocato la morte di quel giovane e per questo sono stati condannati è intollerabile. Purtroppo si inserisce in un clima vagamente eversivo che sta segnando la vita pubblica e che la campagna elettorale non aiuta a dissipare, anzi. Occorre fare attenzione a non superare i limiti. Non è questione che riguarda la libertà di pensiero, bensì il rispetto di regole fondamentali. Questo vale per i poliziotti, dovrebbe valere anche per i politici, almeno in alcune circostanze. Il fatto che Berlusconi sia libero di fare la campagna per le europee, nonostante la condanna, ad esempio, non significa che egli sia altrettanto libero di attaccare il capo dello Stato e accusare la magistratura in una spirale senza limiti. È proprio l'essere stato condannato per un reato grave, quale che sia l'opinione di ognuno riguardo quella sentenza, a fare la differenza. Certe accuse diventano oggettivamente eversive e alimentano un clima pericoloso.